Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di banche, ma questa volta soprattutto di banche tedesche o di una banca tedesca, Deutsche Bank, che va malissimo in borsa dopo che il governo tedesco ha smentito alcune ipotesi di un intervento. Sappiamo che Deutsche Bank ha due grossi problemi: uno, noto da tempo, l'ammontare di derivati che è ancora in pancia; l'altro invece, che è arrivato qualche settimana fa, ossia la multa dal Dipartimento di Giustizia statunitense per la scorrettezza in relazione alla vendita di prodotti legati proprio ai mutui subprime, conseguenza 14 miliardi di dollari. Allora, e la banca capitalizza 18 miliardi, per cui è stato chiesto come multa un ammontare che è quasi al 70% della capitalizzazione. Da inizio anno le azioni di Deutsche Bank hanno perso il 50% del valore. E appunto Angela Merkel avrebbe escluso qualsiasi ipotesi di aiuto pubblico. La banca oggi ha detto di non averlo mai richiesto, ma insomma, se si sommano i 30 miliardi di euro di derivati che voglio dire ha in pancia, più i 14 miliardi di multa, si capisce che la situazione di Deutsche Bank è tutt'altro che serena. Di questo devo dire, su questa scia stanno calando moltissime banche a livello europeo, tra l'altro a livello di area euro soprattutto, non però, e questa se vogliamo è l'eccezione di oggi, Milano, il Monte dei Paschi, che è l'unica banca a guadagnare, adesso è un po' ridotto, ma guadagna il 2,90%, certo a 19 centesimi di euro per azione, ricordati più 3,40%, le altre banche invece... Unicredit perde il 3%, Mediobanca il 3,5%, Mediolanum il 2,40%, Generali il 2,20%, Banco Popolare meno 1,70%, Unipolsai e UbiBanca anch'esse meno 1,7% di calo. Ascolteremo anche alcuni passaggi dell'intervento di Mario Draghi all'Europarlamento, anche sulle banche e anche sulle iniziative di consolidamento. A chi mi scrive: stai godendo per Deutsche Bank? No, non sto godendo per Deutsche Bank. Non godo del problemi degli altri, vorrei risolvere i nostri. Detto questo, faccio notare appunto che per mesi abbiamo sentito dire che l'unico grande problema in Europa come sistema bancario si chiamava Monte dei Paschi e sofferenza delle banche italiane. Mi sembra che vi sia una banca enorme che ha un problema ancora più grosso. Ne parleremo nel corso della diretta, così come parleremo di un tema che invece è tutto italiano, ossia l'andamento dei consumi. Già abbiamo commentato la settimana scorsa un calo del commercio con l'estero e delle esportazioni. Oggi c'è un nuovo dato su agosto che invece è un buon dato. Però il dato sulle vendite al dettaglio, che fotografa insomma l'andamento dei consumi interni, non è bello: meno 0,3% a luglio su giugno, meno 0,2% rispetto a luglio del 2015, è la prima flessione mese su mese da marzo, perché in effetti onestamente i consumi, sebbene in maniera non soddisfacente, si stavano riprendendo e si erano ripresi. È imputabile la flessione soprattutto ai prodotti non alimentari, mentre i beni alimentari crescono ancora anche mese su mese dello 0,3%. Vanno meglio le vendite nella grande distribuzione più 1,1, e invece si contraggono quelle sulle piccole superfici, sui piccoli esercizi commerciali meno 1,2%. Tra l'altro non basta nemmeno l'effetto saldi, perché nonostante appunto i saldi, la moda ha fatto meno 0,2% per i vestiti, meno 0,4% sulle calzature, crescono solo giochi e mobili. Partiamo da qui, perché su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Alla fine della scorsa settimana l'Istat ha pubblicato una revisione dei dati macroeconomici dell'ultimo biennio, una revisione che ha fatto un po' scalpore, nel senso che ha sorpreso un po' tutti il fatto che, tra le altre cose, alla luce di quei nuovi dati, l'economia italiana sarebbe uscita dalla recessione già nel 2014, anno nel quale il PIL avrebbe fatto segnale l'incremento dello 0,1%. Ora, noi diciamo sempre che non sono queste variazioni nell'ordine degli 0, a cambiare lo stato delle cose, effettivamente è così, sia ben chiaro, questi scostamenti sono significativi dal punto di vista tecnico, ma ciò non toglie che la nostra percezione quotidiana sullo stato di salute dell'economia possa essere assai diversa da quella che emerge dai numeri, quindi la recessione è tecnicamente finita nel 2014 perché quell'anno ha fatto registrare il segno più nell'andamento del PIL, ma la crisi, e per crisi intendiamo il perdurare delle difficoltà economiche dall'occupazione alla produzione, ancora non è completamente passata. Oggi una piccola conferma di questa debolezza dell'economia ci giunge ancora dall'Istat, che segnala nuove difficoltà sul fronte dei consumi degli italiani, consumi che a luglio sono diminuiti dello 0,3% rispetto al mese di giugno e dello 0,2% su base annua. Andamento non incoraggiante perché luglio è il mese dei saldi, cioè il mese che dovrebbe invece segnare una crescita dei consumi e non la loro contrazione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo altri messaggi al 349-238-6666, sia come SMS che come WhatsApp. Qualcuno mi dice, beh, oggi non sentiamo Weidmann. In effetti è strano, Il presidente della Bundesbank, che è sempre molto loquace e prolifico quanto a dichiarazioni sugli altri, sulle banche italiane, sul sistema italiano, ma ricordate l'intervista alla Stampa della settimana scorsa, se non ricordo male. Insomma, di tutto, oggi non ha niente da dire su una banca che lui vigila, Bah, Weidmann. Oh, afono oggi? Che succede? Siamo preoccupati. E invece può aver ragione, ma adesso ne parleremo. Chi scrive, forse Renzi, che il Presidente del Consiglio ha detto di non godere delle disgrazie altrui, ci mancherebbe, però sotto sotto forse contava molto in una soluzione di Stato in Germania, proprio per poi infilarci, diciamo, una soluzione eventualmente anche nostra sulle sofferenze bancarie. Non è da escludersi, non è un ragionamento sbagliato, non abbiamo nessun elemento concreto per che lo possa avallare e confermare, però se uno ragiona in chiave un po' politica, se la Germania avesse aiutato Deutsche Bank, per noi sarebbe stato oggettivamente più facile chiedere una soluzione di sistema, come si dice in gergo, anche sulle nostre sofferenze bancarie. Parleremo anche della Svizzera, del blocco dei transfrontalieri. Facciamo notare che, poi ci arriviamo, che in Ticino, in Canton Ticino, uno su quattro di chi lavora ha passaporto italiano, quindi attenzione anche all'effetto boomerang. I risultati definitivi dell'iniziativa referendaria che si chiama Prima i Nostri, promossa dalla destra nazionalista UDC con il sostegno della Lega dei Ticinesi, ha ottenuto il 58% di sì. I no sono stati 40%. Il testo sottoposto agli elettori, appunto, dove lavorano ogni giorno 62.000 frontalieri in Canton Ticino, chiede che sul mercato del lavoro venga privilegiato a parità di qualifiche professionali chi vive sul territorio. Ne parleremo con il direttore dell'Associazione delle Industrie Ticinesi. Non stiamo parlando degli italiani residenti in Svizzera, che sono 290.000 come i tedeschi, 280.000, stiamo parlando di chi lavora oltre confine, e noi siamo i più alti, 62.000 contro 57.000 tedeschi, oddio no, i francesi hanno un numero più elevato di noi di transfrontalieri, 145.000, e poi pochi gli austriaci, 8.000. Andiamo avanti con le notizie di carattere internazionale. Continua la saga dell'OPEC, adesso oggi con un petrolio a $45 al barile. Gli Emirati Arabi dicono di essere a favore del congelamento, ma solo se aderiscono tutti, che questo tutti vuol dire Iran e in parte anche Russia, anche se la Russia ha già fatto capire che è pronta ad aderire a un blocco della produzione. Per quello che riguarda invece l'intervento di Mario Draghi, tra un attimo lo ascolteremo. Ha detto Mario Draghi che più lunga è l'incertezza nel gestire la Brexit, più alti i rischi per i cittadini, e ha ancora ricordato sulle banche come la necessità sia di arrivare a una soluzione. Infine, sempre su, eccolo qua, l'agenzia con Draghi sulle banche: le iniziative di consolidamento sono importanti, gli istituti hanno un problema di redditività e la sovracapacità, cioè l'elevato numero di banche, di sportelli, è una delle cause della bassa redditività del settore bancario. E allora partiamo da questo, da Deutsche Bank e quindi dalle banche, ma ascoltiamo questo Draghi oggi all'Europarlamento sul sistema bancario che lui vigila. Many European banks have a general problem of profitability. Molte banche europee hanno un problema di redditività. Ci sono diverse ragioni per cui registrano una bassa redditività rispetto ad altre banche nel resto del mondo. Una di queste ragioni è sicuramente la sovracapacità. L'elevato numero di banche presenti un po' ovunque nella zona euro significa sì che c'è competizione, ma allo stesso tempo ci sono anche doppioni di strutture societarie e costi ben più elevati rispetto a quelli di banche altrove nel mondo. In generale, quindi, iniziative che portano a un consolidamento del settore bancario sono importanti. In general, initiatives that would bring a consolidation of the banking sector are important. Allora, così Draghi sul sistema bancario europeo. Andiamo invece ai casi di casa nostra. Una citazione anche sull'Italia, però, perché oggi Roberto Nicastro, che è il presidente delle nuove banche, Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Banca Carichieti, Cariferrara, ha detto che le good banks, queste quattro banche che hanno tenuto la parte buona, sono vicine alla cessione con la speranza di firmare a breve uno o più accordi che, oltre a soddisfare i vincoli europei, garantiscano cessioni nel segno della continuità. Ha scritto una lettera ai dipendenti e tra l'altro, insomma, dice Nicastro, dopo oltre 10 mesi di duro lavoro crediamo di essere vicini al punto di svolta tanto atteso. C'è l'interesse di UBI su Nuova Banca Marche e stanno lavorando gli advisor sui conti della banca marchigiana per arrivare a formalizzare l'offerta di acquisto. Tra l'altro, sabato e domenica fino a notte una delegazione del gruppo UBI Banca avrebbe lavorato a quella che si chiama in gergo due diligence, cioè andare a vedere i conti e capire esattamente cosa c'è dentro, proprio nella sede della direzione generale di Nuova Banca Marche a Iesi. Insomma, l'offerta sembra avvicinarsi. Mi chiedete del commercio con l'estero, non l'ho dato, vabbè, ne parliamo più avanti. Comunque oggi il dato non complessivo, che era stato negativo, ma quello relativo solo ai paesi extra UE, è positivo dello 0,1% ad agosto rispetto a luglio, dell'11% rispetto a un anno prima. È l'aumento anno su anno del commercio extra Unione Europea più alto, tra l'altro, dall'aprile 2015, che non lo vedevamo così forte. In particolare, molto bene le vendite rispetto a un anno fa verso la Cina, più 28%, Giappone più 24%, Stati Uniti più 18%, Svizzera più 9%, Russia invece pesa ancora l'embargo, meno 7,7%, i paesi del Mercosur li pesa la recessione, le difficoltà economiche in alcuni casi, meno 7,4%, e i paesi OPEC, non sappiamo, insomma, il prezzo del petrolio non è ancora un prezzo che soddisfi il potere d'acquisto dei paesi OPEC, meno 3,4%. Allora, mi chiedete, non so perché, ma adesso vorrei parlare di Deutsche Bank, della Lorenzin, guardate, insomma, della campagna hanno scritto tutti perché avrebbe criticato i creativi. Guardate, non mi interessa la polemica in sé, che la campagna ultima, anche quella prima, fosse oscena, insomma, l'hanno detto tutti, a partire dal Presidente del Consiglio. No, se proprio vogliamo, quello che mi ha lasciato un po' perplesso, ma non lo metteremo nella classifica del venerdì, è stata la reazione della responsabile comunicazione del Ministero, della direttrice allontanata, cacciata, Daniela Rodrigo. Perché io capisco tutto, ma un'intervista in cui si dice adesso parlerò io, farò vedere i documenti, oh, ragazzi, quando c'è una cavolata del genere, ma un dirigente della pubblica amministrazione che si assuma la responsabilità, dica sì, in effetti, magari la colpa non è direttamente sua, come capita anche nel privato, però il dirigente responsabile sei tu e tu paghi le conseguenze, che è sta storia che tutti hanno sempre una scusa in sto paese e tutti hanno sempre ragione. È stata fatta una cavolata, ti è sfuggita la versione consegnata al ministro rispetto a quella pubblicata sui giornali, il colore, il color seppia, per favore, dai, su. Però tutti hanno sentito, adesso parlerò io e farò sapere io. Cosa fai sapere? Avete fatto una cavolata, te ne devi andare, fine. Poi spiegherai le tue ragioni, magari la posizione del ministro, quello che vuoi, ma dire che non hai colpa quando viene fuori una castroneria del genere è tipico della poca assunzione di responsabilità che spesso, non sempre, notiamo nei dirigenti molto ben pagati, anche in questo caso, della pubblica amministrazione. Allora, Deutsche Bank, non godo, però, insomma, tra l'altro oggi c'è anche la Süddeutsche Zeitung, scrive che l'autorità finanziaria del Nordrhein-Westfalia stanno indagando su 20 grandi banche straniere per sospetta evasione fiscale. Ho capito, ma il tema oggi si chiama Deutsche Bank e l'ospite oggi si chiama Fabio Pavesi. Buonasera Fabio. Buonasera a te e agli ascoltatori. 14 miliardi di multa, 30 miliardi di derivati, mm-hmm, e 18 miliardi di capitalizzazione. Cioè, bastano queste tre cifre per far capire che insomma non è che i derivati siano tutti in perdita, perché bisogna vedere quello che sarà il prezzo finale, ma insomma la situazione è difficile. Il titolo è arrivato a perdere oltre il 7% oggi. La Merkel ha detto niente aiuti di Stato. Allora, la prima domanda è un po' banale forse, ma come mai negli stress test è uscito solo il Monte dei Paschi? Come mai è da un annetto buono che ci occupiamo solo delle banche italiane, giustamente, che hanno un problema con le sofferenze bancarie, e a parte noi, devo dire anche il Presidente del Consiglio, non so, Weidmann non si è mai accorto che aveva una bomba del genere a casa sua? Ti aggiungo due cifre per dare un'idea. Nel 2009, crisi Lehman in corso, il titolo valeva 18 euro, oggi è sceso a 10,6. Nel 2010 valeva 50 euro. Quindi la borsa dice che siamo in presenza di un colosso dai piedi d'argilla. La borsa sta lontana da Deutsche ormai da quasi 5 anni e il motivo è molto banale. La Deutsche non fa più gli utili, nel senso che l'ultimo utile che ha fatto buono era nel 2011 per 4 miliardi, l'anno scorso ha chiuso con un buco di 7 miliardi, cioè questa è l'evoluzione della profittabilità. Da cosa viene questa roba qui? Non dal fatto che i ricavi non vadano, cioè Deutsche continua a fare i suoi 32 miliardi di ricavi tutti gli anni. Il problema è che ha due problemi. Uno, che è investita ogni anno da multe e sanzioni legali per le truffe sull'IBOR, sui prodotti venduti alla clientela, sui mutui subprime. Cioè questa roba qui era la roba pre-crisi Lehman, che lentamente, come una coda velenosa, si spalma sui conti di Deutsche. È veramente una coda velenosa, perché pagano oggi gli errori strategici e diciamo anche certa finanza truffa fatta prima della crisi Lehman. Questi, sì, però scusami, oltre Fabio, su questo uno potrebbe dire che anche Monte dei Paschi paga oggi, ma è diverso, e pagava ieri gli errori fatti, vero, da Mussa, di Baldassari, vero, però tu sei di fronte alla prima banca tedesca, l'economia più forte dell'Eurozona, cioè il paradosso vero è che tu hai un'economia forte dove la Deutsche non fa molto credito alle imprese, quindi non hanno le sofferenze che abbiamo noi. Il problema è che questa banca fa la finanza speculativa, e quindi quando dicevi tu grande mole di derivati, io aggiungo l'altro tema grande, sono i famosi titoli tossici che valgono la metà del capitale della banca. Oggi, non due anni fa, tre anni fa. Cioè la Deutsche continua a scrivere a bilancio che ha 30 miliardi e il capitale di 60, quindi metà del capitale, è fatto di titoli che la Deutsche non sa valutare. Dice: noi non abbiamo un prezzo di questa roba qui, per noi vale 30 però. miliardi. Ma chi lo dice vale 30 miliardi? Se uno facesse la stessa cosa sulle sofferenze bancarie, potrebbe mettere a libro le sofferenze. A me tu devi 100. Ma mentre sulle sofferenze l'EBA e la BCE sanno calcolarle, perché la sofferenza la vedi, sui titoli tossici non la vede nessuno, perché la BCE non ha gli strumenti per dire: questo derivato strutturato che la banca dice che vale 70 per me vale 0. Neanche la BCE è in grado di entrare dentro a quei libri e capire quanto valgono quelle attività. La Deutsche se li autovaluta, però il mercato evidentemente, che non è stupido, dice: io prudenzialmente sto lontano da questa bomba orologeria, perché magari va tutto bene. Ma se domani Wall Street dovesse crollare, e il tema della tenuta di Wall Street ai massimi storici del DAX è lì da vedere, magari la Deutsche deve svalutare. Pensate che se dovesse solo svalutare metà di questa roba, altro che aumento di capitale, si troverebbe sotto col capitale. Poi lo stress test è una roba formale. Ricordo anche che Deutsche Bank ha fatto già due aumenti di capitale, non è che hanno dovuto farli, ha cambiato tre amministratori delegati, sì, e sono entrati fondi arabi, cioè in realtà i grandi azionisti di Deutsche sono gli arabi in questo momento, che hanno le quote di controllo. No, così rispondo anche a un ascoltatore che mi scrive: sì, allora sono soldi vostri. No, guardi che non sono mai soldi nostri, tranne quando parliamo di soldi pubblici, ma in questo programma ci occupiamo di notizie che riguardano l'economia o la finanza, ok? E il crollo in borsa meno 7% di Deutsche Bank è una notizia. Dopodiché, se vogliamo allargare la notizia, non sfugge nessun ragionamento. Cioè, abbiamo un paese che si chiama Italia, che è stato sotto i riflettori in maniera, a mio avviso, anche eccessiva. Non che non ci sia problema, ma il malato d'Europa, il malato bancario dell'area euro per le sofferenze bancarie, per i crediti inesigibili, in un paese che ha perso ancora più o meno il 18% di produzione industriale, non poteva essere molto diverso. E nessuno si è mai occupato dei tedeschi, che continuano a darci lezioni. Ripeto, la settimana scorsa l'ineffabile Weidmann si è messo a parlare della nostra legge di stabilità, della legge finanziaria, come se fosse un commissario europeo. Voglio dire, ma fai il presidente della Bundesbank e cerca di farlo un po' meglio, perché se tu sei la banca centrale che deve vigilare, mi devi spiegare quanta roba ha in pancia Deutsche Bank. È mesi che lo stiamo dicendo. Allora, non ti occupare della nostra legge di stabilità, c'è già Bruxelles, occupati dei 30 miliardi di derivati e di come farà Deutsche Bank a far fronte a 14 miliardi di multa e a come farà ricorrere l'aumento di capitale, perché il punto è proprio questo. Se io non mi fido, Fabio, l'aumento di capitale come lo facciamo? Oggi la reazione di borsa è molto pesante sulla notizia che, certo, la Merkel non aiuterà Deutsche Bank. Sì, sì, ma è ovvio, cioè in queste condizioni, quando c'è l'incertezza su che cosa c'è dentro quella banca lì, questa incertezza, nonostante gli stress test, permane, perché ripeto, la stessa BCE ti dice: io uso i modelli interni di Deutsche che autovalutano i loro titoli liquidi, che però, ripeto, valgono 30 miliardi su 60 di capitale, cioè voglio dire, è una montagna che non è mai stata toccata dalla crisi Lehman. È una sorta di segreto che Deutsche custodisce nei suoi forzieri. Il mercato, ovviamente, quando sente aria di bruciato, poi magari non accade, prende le distanze. Quando tu chiami un aumento di capitale, il mercato ti vende. Cioè, il problema vero, ripeto, il paradosso è che tu hai un sistema come quello tedesco molto forte in eurozona e paradossalmente il sistema bancario fragile, perché c'è la Commerzbank che non sta tanto meglio. La redditività di Commerz è al lumicino. Sì, posso dire una cosa e così? E sono le Landesbank. E possiamo anche ricordare che quando si poteva fare, perché la Germania ha potuto farlo, nulla di illegale, ma 170 miliardi li ha messi nel sistema bancario. Perché è un sistema pubblico, il 30% del sistema bancario tedesco è pubblico e quindi hanno usato gli aiuti pubblici perché quelle banche stavano tracollando. Ecco perché è un paradosso. Io non mi aspetto che delle banche tedesche abbiano difficoltà quando la Germania è stata sfiorata meno dalla recessione. Sono banche globali, Deutsche Bank e Commerz, ma le Landesbank non sono banche globali. E quindi io mi chiedo, le sofferenze che hanno in pancia da un'economia così forte. Essere, adesso andiamo sul meteo. Sarebbe interessante sulle Landesbank capire come vengono affidati i prestiti e le linee di credito, perché sono banche pubbliche. Noi non abbiamo nulla da insegnare, anzi abbiamo solo da imparare, viste le vicende Veneto Banca, Popolare di Vicenza e anche le quattro banche che prima citavo, Etruria, Marche, Ferrara e Chieti, e anche altri casi che abbiamo raccontato in questi anni di affidi un po' strani, o meglio. Però da quello che mi risulta, pure lì il rapporto, diciamo, in questi consigli di amministrazione, dove è presente la politica del territorio, dove è presente appunto presente anche i soggetti che si chiamerebbero stakeholders, cioè portatori di interessi del territorio, fa sì che queste banche poi i soldi li abbiano prestati anche per un rapporto relazionale e non solo per analisi dei bilanci. Dopo il meteo però ti chiedo, vorrei sempre un'ultima cosa, Fabio, e tornare al messaggio che è arrivato al 349-238-666. Non è che adesso noi possiamo anche far finta di festeggiare, dire vedi che non è solo l'Italia, però in maniera un po' più cinica e politica, all'Italia non sarebbe convenuto invece che la Germania predisponesse un piano di aiuti su Deutsche Bank in modo da poter dire beh ragazzi, se questo si fa per salvare una banca che ha questo bilancio e queste, no, allora ci fate salvare anche noi il Monte dei Paschi, o meglio ancora aggiungerei io, mettere in sicurezza con garanzie statali l'intero sistema dei non performing loans, delle sofferenze bancarie. La risposta dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Focus Economia. Allora, Deutsche Bank, dunque, vedo un po' di messaggi che dicono sostanzialmente ma perché bisogna aiutare il Monte dei Paschi? Lei vorrebbe che grazie ai tedeschi e ai problemi di Deutsche Bank, scrive un altro, si salvasse la porcilaia a Monte dei Paschi. Allora, guardate, a me di mettere un euro nel Monte dei Paschi me ne frega nulla, però facciamo dei discorsi maturi e non solo così da Populino, da Masaniello. Se salta una banca come Monte dei Paschi, viene giù il sistema dei prestiti, mutui, affidamenti, e a cascata abbiamo visto cosa è successo con le quattro banchette, ne pagano le conseguenze tutto il sistema bancario italiano. Allora, vogliamo ragionare così? No, delle volte ti sei costretto anche a trovare una soluzione per qualcuno che non ami, diciamo così, o per cui non provi nessun tipo di affinità, ma è meglio salvarlo che farlo venire giù. E infatti a suo tempo si sarebbe dovuta nazionalizzare Monte dei Paschi, ma non riuscivamo perché avevamo il problema dello spread del debito e anche un po' di retorica, no? I soldi dei cittadini. Giustamente mi scrivono gli imprenditori, ma quando io ho un problema a me chi mi aiuta? Avete ragione, ma l'abbiamo spiegato in tutti i modi. Purtroppo è così, la banca ha sempre un ruolo sistemico e quindi avrà una corsia preferenziale perché scatta il panico. Il povero, e lo dico senza retorica, ma seriamente, imprenditore è solo, e quando ha problemi, anzi magari la banca anticipa anche, gli chiede di anticipare i rientri. Sappiamo che è ingiusto, ma è così, non è che posso cambiare io il fatto che il fallimento di una banca abbia un effetto sistemico su risparmi, mutui e depositi degli italiani. Io sono convinto di una cosa, col senno di poi gli americani avrebbero salvato Lehman, perché ricordiamoci, certo, che una banca è già fallita, è Lehman, e ricordate tutti cosa è successo col fallimento di Lehman, cioè il mondo finanziario è imploso, recessione, PIL meno 5 negli Stati Uniti. Ecco, col senno di poi sono convinto che i governanti di allora avrebbero salvato Lehman, perché poi di fatto hanno fatto lo stesso con le altre banche, cioè hanno messo 700 miliardi di denaro pubblico, però lì è stato intelligente, tu dai denaro pubblico, lo dai a un tasso di interesse e credi la restituzione quando la banca si è finalmente risanata, cioè il tesoro americano quei soldi li ha riavuti indietro, il TARP, diciamo, il famoso TARP. Cioè qual è il problema? È che se salta una banca, la banca non è un'impresa qualsiasi, se salta una banca c'è l'effetto contagio. Voi ricordate le code agli sportelli Northern Rock in Inghilterra, impauriti perché anche in Inghilterra c'erano problemi sui al Bank of Scotland, cioè noi avremo le code agli sportelli, quindi è una cosa estremamente pericolosa. Uno può dire sì, ma chi paga? Ovvio, dovrebbero pagare molto chi ha provocato questa cosa. Ma questo è un altro piano. Cioè andrebbero che cacciati i vecchi amministratori, non cacciati, andrebbero anche perseguiti penalmente. Però è un problema di governo pubblico, cioè se tu fai fallire una banca, crei talmente un contagio sistemico che è ovvio che ti poni il problema. Io sto dando una mano a chi non se lo merita a scapito di altri, però sei in questa condizione. No, il tema vero, però adesso non possiamo parlarne, è che giustamente gli ascoltatori sono arrabbiati, perché la sensazione è che poi i dirigenti di queste banche, lascia stare adesso Consoli, Zonin, Mussari, vedremo come andranno, Morelli, abbiamo detto vabbè, aveva già lavorato però in Monte dei Paschi, insomma, Però la sensazione è che il dirigente poi intanto beccano liquidazioni, ma pensa cosa è successo a Sorato, sì, l'ultimo sì, direttore generale che il si è preso il bonus da 4 milioni. Da 4 milioni alla Popolare di Vicenza, cioè la sensazione, poi hai voglia di farteli riprendere. E questa è la cosa che dà fastidio, che i dirigenti bancari intanto prendono il bonus per andarsene a lasciare le macerie e poi eventualmente ci sarà il processo della magistratura. Su questo io sono d'accordo, però detto ciò, far saltare una banca perché così è un po' tagliarsi, diciamo, l'organo riproduttivo, sì, solo perché tua moglie ti ha tradito. Andiamo avanti invece sulla domanda che ti facevo, Fabio, uh-huh, e mi riferisco, non è che l'Italia sarebbe invece convenuta una Merkel che dicesse, beh sì, lo Stato dà una mano a Deutsche Bank? Beh, forse sì, perché a quel punto cade un tabù che è quello del bail-in, nel senso, il tema del bail-in è corretto sul piano formale di principio, dice tu hai sbagliato, non è giusto che il denaro pubblico ti salvi, perché allora qualsiasi banchiere si metterebbe a fare qualsiasi gioco pericoloso perché tanto c'è il paracadute pubblico, quindi in principio va bene. Peccato che questa cosa avvenga dopo che tutti i governi, Inghilterra, Germania, la Spagna, hanno in qualche modo dato una stampella pubblica alle loro banche, che stavano messe quanto le nostre, se non peggio. Penso alle banche spagnole con la bolla immobiliare e le sofferenze immobiliari. Lì hanno fatto la bad bank, soldi pubblici, le hanno ripulite, avevano un debito pubblico che lo permetteva. L'Italia aveva un debito pubblico che non glielo consentiva. E abbiamo traccheggiato, c'è stata anche molta retorica, il nostro sistema è solido, facciamo questi confronti con gli altri, no? Quasi a dire ma noi in fondo ce la facciamo da soli. Non era vero allora, non è vero adesso, e adesso purtroppo col bail-in è tardi, perché ovviamente tu devi fare partecipi delle perdite gli investitori privati, no? Perché il denaro pubblico non si usa più. Questa architettura legislativa rischia di arrivare controtempo, non so come dire, cioè forse era meglio mettere in sesto l'intero sistema bancario europeo, perché ricordiamo che tutto il sistema bancario europeo è ancora messo male. La redditività delle banche in Europa è la metà di quelle americane, non copre il costo del capitale. Quindi nessun investitore interessa stare sul sistema bancario europeo, perché di fatto non viene remunerato. Questa è la condizione delle banche europee. Draghi ha detto le banche sono troppe, sì, la redditività è bassissima, il vero problema, messo a posto il capitale, le banche non guadagnano, sono troppe, vanno chiuse, troppa forza lavoro, costi sui ricavi all'80%. Allora, se tu hai una industria bancaria europea così zoppicante, forse dovevi aspettare, cioè sistemi le banche e poi una volta che le hai sistemate, cioè adesso basta, adesso d'ora in avanti sistemate tutte le banche, sicuri di averle sistemate, il bail-in possiamo introdurlo. Siamo in questa condizione ci particolare. Sono, sì, mi scrivono alcuni ascoltatori, ci sono esempi che dicono il contrario, ma guardate, io non me ne ricordo. Quando è esplosa la crisi nel fine 2008-2009, perfino la Gran Bretagna, il paese diciamo meno interventista dal punto di vista dello Stato, ha dovuto salvare comprandosela Royal Bank of Scotland, perché le tre banche famose nell'utilizzo dei derivati tossici si chiamano, se non ricordo male, HSBC, Royal Bank of Scotland e Deutsche Bank, quelle che avevano diciamo una grande predilezione e preparazione per usare leva, derivati e strumenti tossici, per cui anche in Gran Bretagna hanno dovuto salvare la Royal Bank of Scotland. Io non ricordo casi in cui una banca, a meno che non stiamo parlando di una micro filiale, salta per aria e non succede nulla al sistema. Detto questo, sono d'accordo con Fabio Pavesi che bisognava prendere il toro per le corna a suo tempo, perché qua una volta è Deutsche, una volta è Commerz, una volta è Monte dei Paschi. Mi chiedono della Deutsche Bank italiana. Deutsche Bank Italia, allora, è sicuramente la filiale italiana, non è un caso di omonimia, chi me lo chiede. Però lavora in maniera un po' diversa, giusto perché stiamo parlando di questi, la maggior parte di questi danni l'ha fatta la controllata statunitense di Deutsche Bank. Sì, esatto. Cioè Deutsche Bank Italia è una banca normale, commerciale, ha sportelli qui in Italia, ha avuto una grande espansione. Anche io ho visto i conti di Deutsche Bank Italia, funziona, vanno bene, non hanno molte sofferenze, hanno prestato bene il denaro e operano come una qualsiasi banca commerciale italiana. Il vero casino Deutsche Bank l'ha fatto a livello globale, cioè l'ha fatto con la sua divisione corporate e con la divisione della finanza, insomma, dell'investment banking, dove lì manipolava, ci sono state condanne, i tassi LIBOR, vendeva e autoproduceva derivati che vendeva le altre banche, eccetera, eccetera. Insomma, il nodo sta lì. Insomma, il nodo... Vabbè, tu pensi che comunque riusciranno a raccogliere i 15 miliardi di aumento di capitale? Non si sa, in genere in questo caso c'è un allarme della borsa, ti fa capire che diventa difficile, traccheggeranno, la Merkel ovviamente non ha nessuna intenzione di dare una mano pubblica perché cadrebbe tutta la sua architettura e vedranno di recuperare qualche investitore internazionale. Ricordo che Deutsche Bank sono stati gli arabi a fare gli ultimi aumenti di capitale, andranno a cercare un fondo sovrano molto liquido che decide di mettere un chip sulla banca tedesca, pensando che prima o poi questa coda velenosa delle sanzioni e delle multe passerà. Bisogna vedere quanto tempo ci vorrà smaltirle. Allora, vedo che invece Monte dei Paschi oggi è fatto da più 7 a più 1,4, comunque l'altro titolo di borsa importante, ma ne parliamo con i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore dopo il traffico. Grazie intanto a Fabio Pavesi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Allora, la borsa, al di là del caso Deutsche Bank, che però è il caso che poi ha portato a perdere la maggior parte dei titoli bancari, non il Monte dei Paschi, anche se ha ridotto di molto il rialzo, più 1,40%. Da qui partiamo con Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Vai. Sì, praticamente MPS si è distinta sin dalle prime battute, è andata in controtendenza per due motivi. Il primo è l'attesa di notizie che potrebbero emergere quest'oggi dal consiglio di amministrazione, il primo dell'era Morelli, il nuovo amministratore delegato, ma soprattutto, diciamo, c'è un po' di speculazione, visto che nel fine settimana sono emerse notizie secondo le cui potrebbe essere interessata la banca senese, potrebbero essere interessati i fondi del Qatar, disponibile a mettere fino a 1 miliardo di euro nell'aumento di capitale da 5 miliardi di euro con cui dovrà confrontarsi l'istituto senese. Quindi questa ovviamente sarebbe una notizia molto positiva. Sì, ricordiamo che 5 miliardi è il tetto massimo, in realtà l'ipotesi che metà di questo aumento quasi possa essere dato convertendo le obbligazioni subordinate in azioni è un'ipotesi che resta sempre più in piedi, diciamo, sì, sempre più forte. Infatti, nel caso in cui le obbligazioni subordinate saranno convertite in azioni, scende ovviamente il livello dell'aumento di capitale, quindi da 5 miliardi potrebbe passare, a secondo poi di quante obbligazioni verranno convertite, certo, a 2-3 miliardi di euro. È ancora tutto in forse, si attende proprio per questo il piano sul quale sta lavorando lo stesso Morelli, che dovrebbe essere presentato, sempre da indiscrezione di stampa, a metà ottobre. E comunque l'effetto Deutsche Bank si è fatto sentire su Unicredit meno 3,60, Mediobanca meno 3,90, anche Intesa San Paolo che però ha perso meno 1,15%, Banca Mediolanum meno 3, resto sui bancari assicurativi Unipol meno 2,80, Pop Milano meno 2,70, Unipol Sai meno 2,30 come Banco Popolari e Generali e UB Banca. E poi tra i non bancari assicurativi cito Fiat Chrysler meno 3,70%, Azimut meno 3,40% e poi Telecom Italia meno 2,75%. Un commento se c'è notizia su Fiat, e poi invece vorrei passare a altri titoli un pochino più sottili, ma iniziando anche dal migliore oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione, Recordati più 3,40%. Fiat, Recordati. Ma Fiat paga un po' anche le indicazioni date dal numero uno della BCE Mario Draghi, che per l'ennesima volta, parlando dinanzi all'Europarlamento, ha indicato la possibilità di rischi di una revisione al ribasso delle prospettive per l'economia della zona euro. Questo ovviamente va a impattare negativamente, oltre che sulle banche, anche su tutti i titoli delle società industriali. Detto questo, invece, Recordati oggi è stato senza dubbio il miglior titolo, peraltro sin dalle prime battute di questa mattina si è sempre mossa in controtendenza, ha fatto più 3,3% sull'ipotesi rilanciata dal Sole che siano interessati alla società dei fondi cinesi, degli investitori cinesi. È tutto da vedere poi se la famiglia Recordati accetterà l'offerta. D'altra parte, solo il fatto che circoli questa ipotesi ovviamente a per favorire ordini in acquisto. Allora, andiamo avanti con altri titoli. Beh, oggi molto bene Rizzoli, Corriere della Sera, nel giorno del piano industriale e l'ingresso appunto definitivo di Cairo, RCS più 5,20%, c'è l'assemblea dei soci. Invece poi il Leone Film Group più 29%, ma che è successo? Sì, Leone, ricordiamo innanzitutto che è un titolo molto sottile, quindi è facile che si muova in modo, diciamo, anche abbastanza violento, sia al ribasso che al rialzo. Comunque in questo caso a mettere le ali al titolo è stata la notizia che Maite Carpio Bulgari, una regista spagnola che ha sposato peraltro un membro della famiglia Bulgari, Paolo Bulgari, è entrata nella società rilevando il 10% circa della società che realizza film e produzioni televisive, ha rilevato la quota dalla famiglia Leone e comunque l'ha rilevata peraltro a un prezzo molto interessante di 4 euro e quindi un prezzo superiore. Viaggiava 2,50 euro e ha chiuso a 2,66 euro. E si spiega appunto il rialzo. Intanto grazie Leonora Micheli, poi gli altri migliori e peggiori ve li do io dopo GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Dylan Dog sta arrivando su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Focus Economia. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Concludiamo nell'aggiornamento di borsa con, come promesso, i migliori e peggiori, al di là appunto di Leone Film Group, dell'ingresso di Maite Bulgari, il titolo più 30%, Safebag più 7,60%, SNAI più 6%, Rizzoli Corriere della Sera dicevamo più 5%, Molmed più 5%, fronte opposto Eurotech meno 13,70%, Gambero Rosso meno 7% e appunto Deutsche Bank meno 6,5% il titolo quotato in Italia, Banzai meno 5,50, Cairo Communication meno 4,70. Prima di arrivare al tema dei consumi, adesso vi arriveremo, c'è il tema che riguarda un paese vicinissimo all'Italia, anzi di confine vicinissimo a Milano, mi riferisco alla Svizzera. Che cosa è successo? Che è passato il referendum, come forse molti di voi già sanno, il referendum del Canton Ticino, è un referendum in cui si chiedeva sostanzialmente ai residenti del Canton Ticino di votare o no un giro di vite sui flussi non migratori, ma i transfrontalieri, cioè chi va in Svizzera quotidianamente per lavorare ma non ha passaporto svizzero. Allora, su questo il referendum si chiamava Prima i Nostri, 58% di sì, i no al 40%, sostanzialmente il testo chiedeva che sul mercato del lavoro venisse privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul territorio. Faccio notare che ci sono circa 62.000 frontalieri italiani che lavorano ogni giorno in Svizzera, sono 145.000 i francesi, 57.000 i tedeschi, complessivamente 277.000. Praticamente in Canton Ticino uno su tre degli occupati ha passaporto italiano ed è frontaliero, con una percentuale molto forte che arriva dalla provincia di Varese, 25.000 persone, altre 22.000 arrivano dal Comasco e il resto si spalma tra Lecco, la Valtellina, il Verbano, poi la Valdossola in Piemonte e altre zone minori. Dottor Stefano Modenini, direttore di AITI, che è l'Associazione delle Industrie Ticinesi, buonasera. Buonasera. Allora, sentiamo assieme cosa ha detto il portavoce della Commissione Europea, Margaritis Schinas, con un giudizio abbastanza critico su questo referendum. Ha detto non renderà i negoziati più facili tra Unione Europea e Svizzera. We take note of yesterday's vote in Ticino. Abbiamo osservato attentamente il referendum in Ticino, il cui esito, ci pare di capire, richiede ancora l'approvazione da parte del governo federale. L'Unione Europea e la Svizzera, ormai da mesi, stanno conducendo discussioni intense per cercare una strada che rispetti l'obbligo della libera circolazione delle persone. Il voto di ieri non renderà più facili le già difficili discussioni. Dopo l'incontro del 19 settembre tra il presidente Juncker e il presidente della Confederazione Elvetica, le due parti hanno concordato di continuare a cercare una soluzione che sia accettabile per entrambe e di incontrarsi di nuovo a fine ottobre. Questo sarà il prossimo passo e certamente sarà un'altra opportunità per affrontare l'esito del voto di ieri e le sue potenziali conseguenze. Allora, Modenini, siete preoccupati o in realtà è più l'effetto, tra virgolette, mediatico che quello concreto di questo referendum? Ma sicuramente in questa fase è più l'effetto mediatico, perché io non so quali informazioni arrivino davvero a Bruxelles. Ieri c'è stato un voto regionale, altra cosa è il voto nazionale, quindi le trattative in corso sono tra Svizzera e Unione Europea. Il problema sul tavolo è il medesimo sia in Ticino che a livello nazionale, quindi questo voto non penso che influenzi più di quel tanto queste trattative. Quindi lei ritiene che poi quello che sarà il flusso dei transfrontalieri, perché il referendum era abbastanza un po', non dico criptico, ma abbastanza a volo d'uccello, cioè dire a parità di qualifiche professionali deve essere privilegiato chi vive sul territorio, era più un'indicazione di carattere forse politico che non concreta. Esatto, cioè l'articolo introdotto nella Costituzione di fatto introduce un obiettivo, cioè la popolazione dice vorremmo che esistesse la preferenza nazionale, che tra l'altro di fatto è conosciuta, da quello che mi risulta, almeno in 9 paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Detto questo, il problema è nella legge di applicazione, perché questo obiettivo politico inserito nella Costituzione, secondo noi, non avrà nessun effetto pratico, perché cosa vuol dire inserire in un testo di legge a parità di competenze professionali do vantaggio a un residente? Significa che tradurlo in una legge è impossibile, cioè, perché cosa confrontiamo? I diplomi professionali, come facciamo a tenere conto dell'esperienza di un lavoratore, eccetera. Quindi è un enunciato che è stato inserito da una maggioranza della popolazione che ha forti preoccupazioni, ma non è secondo noi la strada per risolvere i problemi, questa qui. Quindi lei, se ho ben capito, dice attenzione che era un'indicazione più di carattere politico, da connotazione politica. Applicarla diventerà, non dico impossibile, ma del tutto aleatorio, perché lei dice cosa vuol dire a parità di qualifiche professionali. Io posso dire che se tu hai lavorato 5 anni da una parte, qualifiche professionali più alte e di un altro, cioè diventa molto soggettivo. Quello che noi siamo impegnati a fare, anche se devo dire, io rappresento il settore industriale dove il numero dei lavoratori frontalieri è costante nel tempo. Il problema qui è dato dall'afflusso in maniera preponderante di lavoratori italiani nei servizi. È lì che c'è la discussione, perché evidentemente sono i settori dove i residenti sono più presenti. Quindi l'attenzione nasce oggettivamente da una presenza massiccia, perché oltre 60.000 lavoratori su una popolazione lavorativa di 220.000 persone sono tanti. Però all'atto pratico questo voto di ieri, secondo anche tutti i pareri giuridici, non può avere una realizzazione diretta in un testo di legge che ha delle conseguenze poi, perché altra cosa sarebbe dire obbligo i datori di lavoro ad assumere solo residenti, ma questo sappiamo che non è possibile secondo gli accordi internazionali. Ecco, ma lei che rappresenta le imprese, le industrie del Ticino, questi transfrontalieri, in primo luogo italiani mi interessano, che qualifiche e caratteristiche hanno? Perché un referendum del genere sembrava un referendum contro, diciamo, l'idea che non svizzeri rubassero posto ai cittadini svizzeri. Ma sa, questa idea è cavalcata d'arte dai partiti nazionalisti. Non dico che non ci sia un fondo di verità, ma questo fondo di verità in realtà non si traduce nelle cifre, perché la disoccupazione è comunque a un livello intorno al 3%. Cioè, sotto il livello fisiologico, certo. Sotto un livello fisiologico, quindi non abbiamo 30.000 disoccupati che giustificano tutte queste proteste. Poi, come detto, le persone che arrivano dall'Italia, noi lo vediamo nel nostro settore, sono sempre più qualificate. Vabbè. Cioè, noi abbiamo bisogno di tecnici specializzati, di informatici, di personale amministrativo di alto livello, e dall'Italia indubbiamente, anche perché la crisi inevitabilmente ha favorito, ha indotto queste persone a cercare posti di lavoro altrove, porta verso il Ticino personale sempre più qualificato in tutti i settori, fa concorrenza anche nei settori, diciamo, più legati ai servizi amministrativi, finanziari, e questo dà fastidio a chi risiede qui, perché evidentemente crea loro più fatica nel poi trovare lavoro, perché è vero che creiamo posti di lavoro, anche prevalentemente non cresciamo a tassi elevatissimi, e quindi questo si ripercuote un po' anche sulla situazione del mercato del lavoro. Sì, non stento a credere che l'offerta negli ultimi anni dell'Italia sia stata ancor più qualificata, vista la difficoltà del nostro mercato del lavoro e soprattutto di trovare un lavoro per i giovani che assomigli, non dico che sia in linea, ma che assomigli a quella che è stata la loro preparazione e i loro curricula professionali. Quindi non stento a credere che, come avviene a Londra ormai da anni, anche in Canton Ticino, molto più vicino e raggiungibile. Però il problema qual è? Che si offrono sul nostro mercato del lavoro anche personale qualificato italiano e chiedono dei salari a volte chiaramente troppo bassi per un residente. Qui sta il problema. Arrivano ingegneri di ogni genere che magari si accontentano, tra virgolette, di un salario di 3.000-3.500 franchi, che sono dei bei soldi in euro magari netti, ma evidentemente non possono permettere a un residente di arrivare a fine mese, perché il costo della vita in Svizzera è troppo alto. E quindi in questo senso c'è una concorrenza sleale, perché poi il transfrontaliero torna a vivere e consumare poi anche... Il potere d'acquisto è nettamente diverso. Anche in Italia. Chiaro su questo, però ho capito bene quello che lei dice, che è più l'atto politico dell'atto concreto nella scelta poi dei collaboratori, di chi far lavorare. Vedremo appunto se sarà così. Resta come atto politico però l'irritazione di Bruxelles da un lato. Anche il nostro ministro Gentiloni ha detto per ora questo referendum non ha effetti pratici, ma senza libera circolazione delle persone i rapporti tra Svizzera e Unione Europea sono a rischio. Il governatore Maroni ha detto che la Lombardia è pronta a contromisure dopo la decisione della Svizzera. A partire da domani la regione Lombardia predisporrà adeguate contromisure per difendere i diritti dei nostri concittadini lavoratori. Non abbiamo capito quali. Attenzione che lo scambio d'affari tra Lombardia e Svizzera vale da solo 11 miliardi di euro l'anno, un terzo di tutto il totale del nostro interscambio con la Svizzera. E Milano da sola fa 6 miliardi, poi Monza 1 miliardo e 2, Varese 700 milioni, Como 650 milioni. Grazie a Stefano Modenini, direttore dell'Associazione delle Industrie Ticinesi. Si sente bene Radio 24 in Ticino o non si sente proprio? Chiedo. No, si sente come. Ah, bene, però non contiamo mai voi, dovremmo iniziare a conteggiare anche voi come ascoltatori, è così. Esatto. Andiamo oltre al referendum. Grazie anche a lei, traffico. Prego. JP Morgan Asset Management vi presenta Focus Economia. Allora, parliamo di consumi e innanzitutto sentiamo oggi, visto che parliamo di consumi, il dato è oggi deludente, ed è il primo battuta d'arresto sull'andamento delle vendite al dettaglio da marzo del 2015. Si è parlato di consumi anche oggi al 16° Italian Energy Summit qui al Sole 24 Ore. E i consumi e i consumatori. La nostra Anna Marino ha chiesto a Guido Bortoni, che è presidente dell'autorità per l'energia elettrica, a che punto è il processo di interconnessione dentro Europa nella produzione elettrica, ossia ogni Stato dovrà predisporre dei cavi, diciamo, chiamiamoli così, che consentano di trasferire ai paesi vicini almeno il 10% dell'energia elettrica prodotta dalle proprie centrali a livello chiaramente europeo. Il punto l'ha fatto Bortoni con la nostra Anna Marino. Le interconnessioni sono uno strumento per arrivare ad avere un mercato unico. Certamente non bastano solo le interconnessioni, ma ci vogliono anche le regole per integrare i mercati. Ma come strumento servono sostanzialmente per arrivare ad avere un mercato unico, ma il vero obiettivo è quello di avere una politica energetica europea che dà vantaggi a tutti gli Stati. Una politica energetica europea che può essere un'occasione di crescita per gli Stati e sicuramente un'occasione per condividere sicurezza di approvvigionamenti in maniera comune, perché metteremo assieme tutte le nostre diversità all'interno dell'Europa. Riusciremo ad avere un'Europa più verde, perché mettiamo assieme tutte le sostenibilità ambientali che abbiamo, e probabilmente anche un abbassamento di prezzi, e questo per l'Italia è molto importante. E sempre in tema di economia reale, e prima di arrivare al tema, all'approfondimento sui consumi, vorrei farvi ascoltare anche cosa ha detto oggi il ministro Calenda, inaugurando il CERSAIE, che è l'appuntamento più importante per il mondo del bagno, della ceramica italiana, in cui siamo leader mondiali, con una concorrenza spietata, in molti casi anche di dumping, da parte della Cina, di cui anche oggi gli imprenditori si sono lamentati. Noi saremo al CERSAIE mercoledì in diretta, ne parleremo. Però proprio sul tema della Cina, il governo ha detto Calenda sostanzialmente che fuori dalla legge di stabilità le cose importanti sono il market economy status alla Cina, cioè il fatto che non vengano indeboliti gli strumenti di difesa commerciale, che anzi vanno rafforzati. I temi per questa industria qui, questo settore industriale, sono sostanzialmente questo: la competizione scorretta da parte di altri paesi, il costo dell'energia e gli investimenti che vanno fatti. Peraltro è un settore che ha investito molto l'ultimo anno, ha avuto una crescita degli investimenti di più del 20%. Dunque sono qui anche per presentare il piano Industria 4.0, che andrà in finanziaria e che rappresenta un ulteriore forte incentivo agli investimenti, che sono il tema cruciale oggi per tutto il paese. Come si mobiliteranno 10 miliardi di investimenti nel 2016? Concretamente attraverso 13 miliardi di incentivi fiscali, che sono appunto incentivi fiscali, dunque non hanno bisogno di nessun processo di approvazione da parte del Ministero, ma sono attivabili dalle imprese dal primo giorno di operatività della nuova finanziaria, e che sono il superammortamento, l'iperammortamento per tutti quei beni che sono legati a Industria 4.0. Questo è un settore che sarà fortemente impattato da Industria 4.0, e un credito d'imposta alla ricerca e innovazione che abbiamo potenziato sensibilmente, sia in termini di spese ammissibili, sia in termini di dimensioni complessive, che moltiplicheremo per 4. Allora, parliamo adesso di consumi, però devo dare una notizia che hanno appena battuto le agenzie, ed è la notizia più importante oggi, penso, per quello che riguarda l'intera scaletta dei GR. Si voterà per il referendum il 4 dicembre, l'ha comunicato poco fa il Presidente del Consiglio Renzi ai ministri nel corso del Consiglio dei Ministri, appunto. Quindi 4 dicembre la data per il referendum costituzionale, domenica 4, praticamente poi c'è il 5, 6, lunedì, martedì, il 7 e l'8 soprattutto è festa. L'alternativa era tra domenica 4, i dubbi erano tra domenica 4 e soprattutto domenica 27 novembre. Il governo ha deciso per il 4 dicembre prossimo. Luigi Bordone, presidente di Centromarca, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, voi che avete monitorato, in quanto associazione che riunisce i marchi più importanti di questo paese, monitorate l'andamento dei consumi. Oggi scopriamo che a luglio hanno fatto meno 0,3% su giugno e meno 0,2% rispetto all'anno prima. È la prima flessione congiunturale, cioè mese su mese, da marzo. Male soprattutto le piccole superfici, meno 1,2%, grande distribuzione più 1,1%, prodotti non alimentari meno 0,5% rispetto al mese prima come valore, e quelli alimentari più 0,3%. E soprattutto scopriamo che non c'è stato alcun effetto saldi: meno 0,2% i vestiti rispetto all'anno prima, meno 0,4% le calzature in valore, prodotti alimentari appunto tengono e quant'altro. Questo, secondo lei, è il segnale che anche i consumi, che pure nell'ultimo anno avevano avuto segnale più costante, si sono fermati? Questi dati non ci sorprendono, ma comunque sono un po' la certificazione che continuiamo, a seconda dei settori, in situazioni di maggiore o minore di andamento un po' migliore, un po' peggiore, ma comunque sempre di stagnazione, cioè continuiamo a girare intorno a degli zero virgola che anche laddove hanno una consistenza un po' maggiore, in ogni modo non ci danno l'idea, non emerge una spinta, insomma, quindi continuiamo in una situazione che non è assolutamente soddisfacente. Guardi, noi tra le nostre aziende abbiamo un 60% di aziende che vanno bene, e quindi questo può sembrare un dato positivo, sicuramente tengono le posizioni, alcune vanno anche molto bene, però quando c'è un 40% delle imprese dell'industria di marca che è in sofferenza, a questo punto la situazione diventa preoccupante, e non sappiamo se è una stagnazione che sarà secolare, come dicono Krugman o Sanders, ma in ogni modo ormai decennale sicuramente lo è, quindi questo è il segno che servono degli interventi. Senta, decisivi. Ma da quello che voi avete capito è più l'assenza di potere d'acquisto, la domanda non è retorica, o l'assenza di fiducia? Assenza di fiducia. Abbiamo visto anche aumentare i depositi bancari, aumentare certo. Negli anni il risparmio gestito, il che non vuol dire negare che centinaia di migliaia di famiglie siano in difficoltà vera, lo raccontiamo, come potere d'acquisto, però è capire perché le altre, diciamo, non sono tornate a consumare, o meglio, hanno iniziato a farlo e poi tutto è rallentato e adesso si è fermato. Quindi lei imputa la fiducia. Ma guardi, anche dalle ricerche che facciamo risulta chiaramente che c'è una situazione di incertezza generale, direi che il tratto dominante della situazione, un po' a tutti i livelli, quello dell'incertezza, dell'instabilità, e questo sì. Ma incertezza su cosa? Cioè una ripresa economica che continua a essere rimandata o comunque continua a essere più debole del previsto? Certo, ma intanto incertezza politica. Abbiamo questo susseguirsi di eventi dirompenti in continuazione che chiaramente creano un clima di apprensione. E questi vanno poi ad aggiungersi su una situazione nostra, diciamo di paese, dove ci sono dei nodi che continuano a risultare irrisolti. E poi, ad esempio, avete appena parlato del referendum, finalmente è stata fissata una data, ma però a fronte di una situazione che richiede impegni diciamo e decisioni politiche importanti, si è rimasti incagliati per mesi o mesi sul sì e sul no al referendum costituzionale, che dovrebbe essere un momento di coesione, no? Invece è diventato un'occasione ulteriore di scontro, di divisione e via dicendo, con un disorientamento generale. Quindi c'è bisogno di vedere delle scelte decise, consistenti. Adesso abbiamo la finanziaria, speriamo che ci siano poche scelte, però decise, tutte orientate alla crescita. Beh, guardi, ce lo auguriamo anche noi, non so quanto questo avverrà, perché una finanziaria molto molto stretta, oggi Mario Draghi è stretta nei suoi margini, anche Mario Draghi ha detto attenzione, c'è già molta flessibilità nelle regole esistenti. Comunque ho capito benissimo il suo ragionamento e devo dire che tutti i dati che arrivano anche a noi portano a dire che al netto delle difficoltà vere di migliaia di famiglie italiane, il problema sono le altre famiglie che queste difficoltà non le hanno ma non vogliono spendere per l'incertezza sul futuro. E qui torniamo alla battuta classica, che tu quanta acqua puoi dare, quanta acqua vuoi al cavallo, ma se non vuole bere butti via solo l'acqua. Grazie anche al presidente di Centromarca e da Sebastiano Barisoni veramente tutto, vi auguro buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. A chi me lo sta chiedendo, se è uscita l'agenzia, il governo ha deciso, lo ha comunicato il Presidente del Consiglio, il referendum costituzionale il prossimo 4, domenica 4 dicembre. A domani. Radio 24, la passione si sente.